ferita perché, diciamo, la ferita fa riferimento innanzitutto all'Ndrangheta, al fatto che stiamo assistendo, per fortuna, negli ultimi anni a delle vittorie, no? grandi vittorie da parte dello Stato, con dei risultati assolutamente stupefacenti nel contrasto alla lotta criminale organizzata, però anche a delle aperture della società civile. E questo è anche, non dico più importante, ma ugualmente importante, perché si è sempre detto che la lotta militare non è sufficiente se non c'è un'assunzione di responsabilità da parte della società civile, quindi anche se la società, la società civile non risponde ugualmente con un atteggiamento culturale, perché la 'Ndrangheta, ricordiamo, è anche una mentalità, non è solo un fenomeno di un'organizzazione criminale, è proprio una mentalità che ritroviamo a tutti i livelli del quotidiano. Quindi la ferita indica innanzitutto la 'Ndrangheta ferita, però indica anche una connotazione, diciamo, culturale nostra, ecco, di calabresi. I calabresi in qualche modo hanno incorporato questa mentalità. Noi ci preoccupiamo prevalentemente di quella fascia di popolazione che non è mafioso, ma che potrebbe diventarlo, perché vive in un tessuto sociale totalmente permeato.